Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi e la cronaca di questa giornata economico-finanziaria, giornata come già vi hanno raccontato i nostri GR funestata da tre morti per ora, e speriamo che siano solo questi. In Grecia, dopo gli scontri, la situazione sta, a noi non piace dire il termine precipitando perché crea più allarmismo che altro, però è quantomeno molto molto difficile in Grecia. Scontri di piazza, manifestazioni, appunto i morti non facilitano certo il compito del governo greco, con una borsa che anche oggi perde parecchio. Oggi però dunque il recupero delle borse non c'è stato, le borse perdono tutte, non tantissimo, però un altro 1,40% Milano, l'1,2% Parigi, lo 0,80% Francoforte e lo 0,3% l'America, l'1% la Gran Bretagna. Chi è in netta, evidente sofferenza è l'euro, che è sceso. Prima ha perso quota 1,30, è arrivato a 1,29, poi ha perso anche quota 1,29 sul dollaro, è sceso a 1,28,5. Ripeto, quando parliamo di euro non è in termini assoluti che stiamo ragionando, l'euro a 1,28 è ancora un euro molto forte nei confronti del dollaro. Se immaginiamo un rapporto euro-dollaro 1-1, alla parità, siamo un 28% sopra questo livello. Il punto è che in questo momento si guarda il rapporto euro-dollaro per capire quanto i mercati e chi sta speculando anche a livello valutario su un peggioramento drastico, brutale della situazione in Europa. Ebbene, si guarda questo rapporto per vedere se continuano queste speculazioni, e il fatto che l'euro ieri prima abbia perso quota 1,32, poi anche quota 1,31, oggi abbia perso quota 1,30 e poi anche quota 1,29, vuol dire che a livello mondiale si continua a scommettere che la situazione in Europa peggiorerà. Scrive un ascoltatore che il gufo oggi ha il lutto al braccio. Eh sì, apprezziamo così un tentativo anche di sdrammatizzare, ma la situazione è drammatica. Stanno pagando le conseguenze di questa crisi le persone normali. Ricordiamo sempre, per favore, che questa crisi nasce dalla follia finanziaria delle banche d'affari e di tutti quelli che hanno avuto modo in questi anni di incrementare i volumi di prodotti derivati, prodotti ad alto rischio, senza poi capire le conseguenze, quindi senza poi capire a quanto ammonta il valore. Sappiamo che solo i credit default swaps, ossia i premi, la speculazione su come si muoveranno i premi assicurativi che uno prende quando investe in un paese, che uno paga quando investe in un paese, ecco, solo la speculazione su questo vale una volta e mezzo il PIL mondiale, solo sui credit default swaps. Questa è la dimensione, diciamo, della economia finanziaria o della finanza globale. Detto ciò, alcuni fanno notare che non è una coincidenza che tutte queste pressioni scoppino nel momento in cui Barack Obama si appresta a andare molto pesantemente a una riforma di Wall Street. Può essere. Alcuni nostri ospiti hanno ricordato nel passato che sarebbe stato molto pericoloso per Barack Obama andare a uno scontro frontale con Wall Street, non solo perché questi sono dei grandi finanziatori dei repubblicani e dei democratici, ma perché questi soggetti sono in grado di scatenare quella che Giulio Sapelli, poi magari lo facciamo anche risentire, definì una bomba atomica. E qui veniamo al secondo tema che tratteremo, cioè oltre alla cronaca della giornata in Grecia e della situazione greca e del peggioramento anche della situazione in Spagna e in Portogallo, vorremmo capire che volti ha questa speculazione, perché insomma si continua a dire il mercato è ribassista, gli operatori scommettono su un fallimento della Grecia, su una difficoltà enorme in Spagna, però sono tutte figure molto ineffabili, molto eteree: il mercato, gli speculatori, le borse, gli operatori. Non ci sono facce, non ci sono luoghi geografici. Ci è venuto in mente che insomma nell'ultimo grande crisi economica che il mondo occidentale ha conosciuto, mi riferisco allo shock petrolifero degli anni 70, almeno lì i volti c'erano, quelli dei sceicchi dei paesi arabi, e il luogo geografico c'era, i paesi che producevano petrolio, insomma le tensioni con Israele, le guerre con Israele, insomma, si capiva il perché. Qui non si capisce da dove arrivi, parte da Hong Kong, parte da Wall Street, dalla City di Londra, da Francoforte. Chi ci sta guadagnando, ma soprattutto che nomi, che facce, che luoghi hanno i terreni in cui opera la speculazione? Questo sarà il secondo tema di questa puntata, ammesso che si riesca a capire chi sta guadagnando in questo modo, perché altrimenti continuiamo a usare forme verbali che poco dicono. I mercati, ma cosa vuole dire i mercati? 349-238-6666 per i vostri sms. Daremo anche cronache di alcune notizie italiane, il congresso della CGIL che oggi si è aperto, da un lato, alcune dichiarazioni del presidente del Comune Italiani Chiamparino e anche del presidente delle regioni. I sindaci oggi si sono incontrati, e ancora Luca Zaia, governatore, del presidente della Regione Veneto, che parla del suo programma di lavoro, del futuro del federalismo, del rapporto banca e territorio, parla anche di Grecia. Beh, ogni tanto magari ognuno potrebbe restare sul suo, come si dice in gergo. Comunque, ascolteremo anche questo. 349-238-6666 per i vostri sms. E allora, le altre notizie in breve. Sì, vedo che molti scrivono, ma insomma la Grecia è causa dei suoi mali, ha falsificato e truccato i conti. Questo è vero, ma lo sappiamo da 3 mesi, 4 mesi almeno. Io mi sto riferendo a quello che è successo ieri, a quello che è successo ieri dopo che i paesi europei domenica hanno chiarito una volta per tutte che 110 miliardi di euro arriveranno alla Grecia in 3 anni, chiarito che la Grecia è un paese che fa parte dell'euro, chiarito che questi soldi sono molto molto meno di quanto non abbia pagato la Casa Bianca solo per salvare il colosso dei mutui americani AIG, e nessuno si è permesso di andare a bastonare gli Stati Uniti, che pure viaggiano con un deficit del 14% come la Grecia, e nessuno prova a scommettere che vi sarà un crack finanziario negli Stati Uniti. Allora, dov'è la differenza? Fermo restando tutte le colpe greche, non si capisce perché ci sia questo gioco al cerino, per cui prima si brucia la Grecia, poi si brucia il Portogallo, poi la Spagna, poi arriverà la Gran Bretagna. Oggi una dichiarazione di Fitoussi, nostro ospite la settimana scorsa, dice: ma qua scommettono su questa serie di paesi. Chi scommette? Perché lo fa? Perché rischia i soldi convinto poi di guadagnare? Vabbè, andiamo avanti. Petrolio in calo del 3,7%, risente della situazione internazionale. Il prezzo del petrolio scende $80, sotto gli $80 al barile, 79,80. Ci attendiamo a breve anche un calo dei prezzi della benzina e del diesel nei distributori, visto che da sempre abbiamo capito che seguono in maniera assolutamente corretta le variazioni del prezzo del petrolio. Dicevo, oggi congresso della CGIL senza grosse tensioni, qualche fischio al ministro del welfare Sacconi, alla presidente del Confindustria Mancegaglia e agli altri sindacati presenti. Mi riferisco alla CISL con Raffaele Bonanni e la Will di Luigi Angeletti, c'era anche l'UGL con Renata Polverini. Ripeto però, poche le tensioni e varie dichiarazioni di Guglielmo Epifani. Avremo un breve approfondimento nella seconda ora. Ha chiesto agli altri due sindacati, a CISL e Will, basta le lacerazioni nel mezzo della crisi, si richiede un sindacato che sappia lottare e stare unito nell'interesse superiore dei lavoratori. Sui contratti, siamo pronti a lavorare per riconquistare un modello condiviso sulla contrattazione aziendale. E poi una dichiarazione interessante di Epifani. Ha detto: per risolvere la crisi, il mondo delle imprese e quello del sindacato, inclusa quindi la CGIL, chiedono insieme di fare di più. Il governo rifletta sul fatto che il sindacato la pensa come le imprese. I dati sull'occupazione: perdiamo 1 milione di posti, purtroppo 1 milione di posti di lavoro che prevedevamo di perdere lo abbiamo perso, di cui un terzo di questi nuovi disoccupati è al sud. E ancora, con un piano straordinario triennale per il lavoro e l'occupazione potremmo, diciamo, portare la disoccupazione dal 10%, la CGIL include anche la cassa integrazione in questo dato, al 7,5% entro il 2010. Serve lo sblocco del turnover nella scuola e nella pubblica amministrazione. Le scuole e pubblica amministrazione sono bloccate quanto assunzioni, cioè chi va in pensione non viene sostituito. Sulla riforma, diciamo, del diritto del lavoro, molto duro Guglielmo Epifani ha detto: è in atto una controriforma dei diritti, viene smantellato l'accordo sul welfare, c'è una forzatura sul diritto di sciopero, reagiremo. E l'apertura della CGIL per tornare a un tavolo per rivedere la riforma dei contratti ha trovato una risposta in Marcegaglia, presidente Confindustria, che ha detto: sì, siamo disponibili a qualche piccolo cambiamento rispetto alla piattaforma approvata con CISL e UIL, quella che dà maggiore forza alla contrattazione di secondo livello, ma non a stravolgimenti. Contrari invece a Marcegaglia alla proposta della CGIL di sbloccare il turnover, quindi il blocco nelle assunzioni nel pubblico impiego nella scuola. Due dati ancora e poi partiamo anche con i dati economici diffusi oggi. Calano i licenziamenti in America, meno 71%, e l'indice che misura i mutui sulla casa aumenta del 4%. Sono due notizie che, insomma, vanno nella direzione di una certa normalizzazione dell'economia negli Stati Uniti. E poi anche oggi le nuove previsioni della Commissione Europea. Dovrebbe crescere un po' più del previsto l'area euro, più 0,9% invece dello 0,7% mediamente, l'Italia più 0,8% e a politiche invariate più 1,4% nel 2011. L'Italia purtroppo è stata vista a ribasso quanto a crescita economica. Precedentemente Bruxelles stimava un più 1% per la crescita economica italiana, quest'anno invece più 0,8%. E poi previsione di un debito italiano sopra il 118% nel 2010, e i conti sono fragili, ma arriva un plauso alla politica del governo da Bruxelles. La politica del governo è stata accorta, e quindi di nuovo un elogio al ministro Tremonti per aver tenuto botte sui conti pubblici, e arriveranno effetti positivi dallo scudo fiscale, ma l'Italia deve fare più sforzi per ridurre il debito. Ascoltiamo questo passaggio del commissario degli affari monetari europei Olli Rehn. L'Italia è in una situazione diversa rispetto a molti altri paesi perché non ha preso molte misure di stimolo fiscale negli ultimi due anni in considerazione del suo alto livello di indebitamento. Questo non significa che l'Italia non debba affrontare delle sfide. Visto il suo debito così alto, credo sia senza dubbio necessario intensificare gli sforzi di consolidamento delle finanze pubbliche. Quindi mi aspetto che l'Italia, come tutti i membri della zona euro, intensifichi il lavoro per consolidare il proprio bilancio e per stabilizzare il suo alto debito pubblico. Vedo che il tema che abbiamo scelto per la seconda ora, che volti ha la speculazione, le facce di questi indiani che stanno attaccando la dirigenza europea, insomma, piace molto. Alcuni di voi vogliono che si ricordi il pranzo dell'8 febbraio a New York. Io sapevo che fosse stata una cena, forse era un pranzo, ma un poco cambia, ne parleremo. Eh sì, i maggiori gestori degli hedge fund, dei fondi speculativi al mondo, tra cui George Soros, si sono incontrati decidendo che avrebbero scommesso sul crollo dell'euro, sull'uscita della Grecia. Sarà un caso, ma poi così è successo. Non ho dato i titoli di borsa, avete ragione. Allora, guadagna Pirelli dopo il via libera allo spin-off di Pirelli Re, quindi alla separazione di Pirelli Real Estate immobiliare da Pirelli Gomme, più 2%, bene anche Eni, più 1,3%. Tenaris più 1 e Campari più 0,40. Chi perde oggi? Di nuovo le banche. Nel caso di Monte dei Paschi meno 3,7, Banco Popolare meno 2,91, ancora Banca Popolare di Milano cede il 2% secco, Mediobanca l'1,80, Unicredito perde l'1,35%. E Intesa San Paolo, eccola qua, meno 2,1%, male anche Fondiaria, meno 3,94, Mediaset, meno 3,30, Fiat sulla soglia dei 9 euro per azione, meno 3,1, Ubibanca, meno 3, Geox meno 3, Lottomatica meno 2,70, Autogrill meno 2,6, Unipol pure, Italcementi pure, Prismia meno 2,2. Queste lunghe notizie in breve, perché oggi era particolarmente densa la giornata. Partiamo adesso dalla cronaca di quello che sta capitando in Grecia, concentrandoci prima sulla Grecia e sulla Spagna anche, e poi parlando dei volti della speculazione. 349-238-6666 per i vostri sms. Anche oggi, come iniziamo ieri, piove, piove su tutta l'Italia, piove sui mercati, piove in maniera tragica in Grecia. Tre morti infatti negli scontri in Grecia, e arriveremo anche ad Atene. Mentre nel frattempo schizzano di nuovo i rendimenti delle obbligazioni greche, la differenza con quello che rendono obbligazioni tedesche, vanno a record anche quelle spagnole. E qui arriva la pioggia, anche secondo il commissario degli affari monetari europei, Olli Rehn, ha detto, insomma, attenzione, insomma, le previsioni per la Grecia dobbiamo rivederle a ribasso. Nel 2010, quando la maggior parte delle economie europee usciranno dalla recessione, l'Italia più 0,8, modesto ma in uscita, la Grecia farà un altro meno 4%. Il pacchetto di sostegno alla Grecia, messo a punto dai partner della zona euro e dal Fondo Monetario Internazionale, ridurrà le tensioni sui mercati europei, ma ci vorrà del tempo. Tutte le esperienze del passato ci dimostrano che non accade da un giorno all'altro, ma in modo graduale. In questo caso, va ricordato che il piano di Unione Europea e FMI è un piano pluriennale e darà tempo alla Grecia di mettere a posto le sue finanze pubbliche e di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Unione Europea. Il piano UE-FMI è stato pensato per coprire totalmente tutte le necessità di finanziamento della Grecia fino al 2012. Pensiamo che gradualmente la Grecia sarà in grado di tornare alla normalità, ma anche nel 2013 copriremo le necessità finanziarie del Paese, se ce ne sarà bisogno. In 2013 we will partly cover the financing needs of Greece if needed. E poi la Spagna, il nuovo orizzonte della speculazione, questa parola così eterea, la speculazione. Ebbene, dice il commissario degli affari economico monetario europeo, Olli Rehn, insomma, la Spagna non ha bisogno di assistenza finanziaria. Non è che i mercati lo abbiano ascoltato molto, perché oggi la differenza di quanto rende un'obbligazione spagnola rispetto a quanto rende un'obbligazione tedesca, pur essendo ancora molto molto distante dai livelli greci, è schizzata a un nuovo record, da 130 punti, l'1,3% di differenza come rendimento. Anche in Portogallo la differenza con l'obbligazione tedesca è schizzata al 2,8%, in Grecia siamo all'8%, per dare senso alle proporzioni, ma insomma la cosa non fa certo piacere. E Moody's, le agenzie di rating, Moody's ha detto attenzione, Portogallo è sotto osservazione per un possibile taglio del suo debito dall'attuale livello di AA2. E poi anche Fitch, l'altra agenzia di rating, assieme a Standard & Poor's e Moody's, ha detto vi saranno dei tagli nei voti se la crescita della Spagna sarà inferiore alle stime. Si svegliano tutte adesso le agenzie. Chissà dov'erano a inizio anno, quando già le prime previsioni venivano diffuse, quando si sono visti i bilanci degli stati, insomma, quando si è capito che questa crisi si sarebbe protratta fino al 2010. Comunque, sentiamo Olli Rehn, commissario europeo, anche sulla Spagna. No, non lo faremo. Non proporremo alcun piano di prestiti per Madrid. Non c'è alcun bisogno di un piano di assistenza finanziaria. Penso che non ci siano limiti alle speculazioni, alle voci circolate ieri secondo le quali ci sarebbe un intervento imminente del Fondo Monetario Internazionale in aiuto alla Spagna. Penso che dobbiamo stroncare sul nascere questo tipo di voci, in modo da non buttare benzina sul fuoco alimentando inutili speculazioni. Quindi non è previsto alcun piano per la Spagna e non so come le voci di ieri possano essere circolate anche su mezzi di comunicazione molto seri. Certo, nessuno può negare che ci siano tensioni sui mercati finanziari, ma come spesso accade, ci sono anche esagerazioni. Often in the financial markets there is also significant overshooting. E non lo capisce il commissario europeo, figuratevi se lo capiamo noi. Non c'è stata una notizia fattuale ieri che giustificasse il crollo dei mercati. Voci di corridoio, voci da bar sulla possibile richiesta di 200 miliardi da parte della Spagna al Fondo Monetario, voci da bar sul possibile abbassamento del debito, del voto sul debito spagnolo e portoghese, smentite dall'agenzia di rating, ma non c'è stato niente da fare. 140 miliardi di capitalizzazione di borsa bruciati in un solo giorno. E adesso il capitolo più difficile anche da un punto di vista umano, il capitolo greco. Questo è il sonoro degli scontri che da questa mattina si stanno purtroppo susseguendo ad Atene. Tre morti, bombe Molotov, persone bruciate, morti in una banca, attaccata con bombe Molotov, l'edificio che ospitava la Marfin Ignazia Bank nel centro di Atene, altri edifici in fiamme ad Atene. Vittorio Daroldi, inviato del Sole 24 Ore ad Atene, buonasera. Buonasera a voi. Tu, come senti, ti trovi in una situazione adesso abbastanza tranquilla? Dici che cosa hai visto questa mattina e poi adesso veniamo anche, cerchiamo di capire dopo il meteo, insomma, quanto pesante è questa situazione greca, perché qui ha delle colpe anche il governo precedente, c'è un sistema economico greco in cui il nero è peggio che in Italia ed è già un record questo, l'evasione è peggio che in Italia, pure qui un record, le tutele pubblico impiego sono peggio che in Italia, anche qui un record. Vittorio, la situazione e diciamo il calendario di queste manifestazioni. Dunque, oggi era lo sciopero generale, cioè settore privato e settore pubblico, quindi circa 2,5 milioni di aderenti alle due grandi centrali sindacali del paese. Il corteo è stato immenso, circa 3 chilometri, ha cominciato la piazza Omonia e ha praticamente attraversato tutto il centro della città. Gli scontri sono iniziati davanti al Parlamento, in una situazione all'inizio abbastanza tranquilla, perché il servizio d'ordine del sindacato ha tenuto a bada gli stessi manifestanti. Poi c'è stato un momento di disattenzione e una frangia ha cercato addirittura di assaltare il Parlamento. La polizia è intervenuta e ci sono stati appunto i primi scontri. Nel proseguo di questa giornata convulsa che ha paralizzato completamente il paese, alcuni gruppi, probabilmente quelli più facinorosi, quelli che dell'anarchia, quelli che si black bloc, potremmo definirli in un termine più conosciuto in Italia, sono stati appunto si sono allontanati dal corteo e hanno incendiato la filiale, altre filiali di banche, tra cui quella appunto della Marfin Ignazia di via Stadiu, che è la parte più importante. Sembra che i manifestanti abbiano visto degli impiegati all'interno della banca e questo l'abbiano visto come una provocazione. A quel punto uno scalmanato deve aver tirato questa bomba Molotov che ha bloccato la via di fuga degli impiegati della banca. Alcuni sono riusciti a salire sul tetto, altri invece sono rimasti imprigionati, tre dei quali purtroppo hanno perso. Incredibile, anche perché, lo dico con massimo rispetto, ma qui si sta facendo la lotta di poveri contro poveri. Un impiegato di una banca è un povero. Adesso non vorrei citare perché non c'entra nulla con questo programma. Pasolini dopo la battaglia di Valle Giulia nella Sapienza di Roma, ma insomma è uno scontro da poveri. L'impiegato di una banca è vittima di questa situazione, sia come paese greco che come speculazione internazionale, quanto lo è l'operaio, il dipendente, attenzione, che poi insomma chi ci sta guadagnando non sta dentro una banca, sta un po' più in alto, anche diciamo come palazzo. Vabbè, allora le informazioni meteo, la pubblicità e poi invece Vittorio, sperando che questo sia l'ultimo aggiornamento dalla Grecia in quanto a morti. Tra l'altro vedo che il sindacato ha parlato di un tragico evento che speriamo resti isolato, ma ha detto noi andiamo avanti con la nostra lotta. Il premier greco Papandreou ha invocato l'unità nazionale, insomma situazione pesante. Cerchiamo di capire anche quanto sia difficile riformare la Grecia, perché la Grecia è arrivata a questo punto perché ha truccato palesemente i conti. Il precedente governo Papandreou in questo momento si sta beccando una rogna enorme per cose che non ha fatto, no, qualcuno avrà qualche rimando. E perché è così difficile riformare la Grecia? Semplicemente perché, come poi scopriremo, la struttura del controllo fiscale del paese, dei controlli, è una struttura che praticamente fa acqua da tutte le parti. Allora quando cerchi di dare un giro di vite ti accorgi che la vita è spannata. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:38, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Vittorio Darold, abbiamo capito, insomma, che purtroppo qualcuno dice ma insomma siete troppo tristi, il morale va giù. Insomma, tre morti bruciati in una banca greca, cosa dobbiamo festeggiare? Vabbè, ogni tanto. Dicevo, Vittorio Darold, capite le tensioni, vedo che ha parlato anche a Rimini al congresso della CGIL, un sindacalista greco, delegato della CGIL greca, Filippos Thomas, ha detto insomma... noi siamo vittime degli speculatori e le misure richieste al Fondo Monetario e i modi per raggiungere oltrepassano qualsiasi grado di tollerabilità da parte dei lavoratori greci. Oltre che essere contro la gente, porteranno anche la Grecia a una fase di depressione economica. Anche noi siamo d'accordo nel ridurre il deficit come sindacato greco, ma non concordiamo sul modo in cui si vuole farlo. Possiamo ricordare, Vittorio, prima di far sentire la nostra scheda, che cosa prevedono le misure molto forti, draconiane, chiesta dal Fondo Monetario Internazionale, che su questo è uno specialista, diciamo. Sì, il Fondo Monetario ha chiesto alla Grecia di ridurre sostanzialmente del 20% gli stipendi degli impiegati pubblici, che qui sono circa 750.000, un vero e proprio esercito, e di congelare pensioni e i salari dei dipendenti privati, che avranno anche una maggior flessibilità, cioè potranno essere licenziati con maggior appunto facilità dalle norme previste. Tutto questo vale circa 30 miliardi di euro, cioè una manovra enorme per questo paese che ricordo ha un PIL di 280 miliardi. Gli aiuti che la UE ha previsto sono a 110 miliardi, cioè il più grande aiuto che appunto l'Unione Europea e il Fondo Monetario hanno messo in campo per salvare. Cioè quasi la metà del PIL greco. Esattamente. Cioè come se da noi, visto che abbiamo un PIL più o meno di 1550 miliardi di euro, è come se noi ricevessimo aiuti per 700 miliardi di euro in proporzione. Sì, quelli che i greci chiamano l'OPA sulla Grecia. Cioè... vabbè, ho capito, l'OPA però insomma se la sono anche un po' volute i governanti in primo luogo. Comunque, sì, andiamo avanti. Però appunto i greci dicono che in qualche modo i loro governanti non hanno rispettato il patto, cioè... Tenete conto che il premier, l'ex premier Karamanlis, il premier appunto, Karamanlis, meglio che nel 2004, arrivò con un debito di 180 miliardi e ha lasciato nel 2009, ottobre 2009, il paese con un debito di 300 miliardi, 120 miliardi di debito aggiuntivo in 6 anni. Ma dov'è Karamanlis in questo momento, lo si sa? Karamanlis qui lo danno per in America, negli Stati Uniti, lui non si fa trovare, non parla, nessuno sa dove sia, voci non confermate dicono che sia fuori dal paese. Vabbè, okay. Allora alcuni messaggi, bisogna fare un po' di ordine perché è vero che la Grecia ha molte responsabilità, Karamanlis ne ha di enormi, avete appena sentito 120 miliardi di debito in 5 anni, una cosa pazzesca per un paese così. Come è stato fatto questo debito? Adesso ve lo racconta la nostra scheda. È anche vero che le misure sono molto forti, cioè immaginate in Italia cosa capiterebbe se tu levassi le tredicesime e le quattordicesime, aumentassi l'età pensionabile in una botta sola di 7 anni, perché loro ce l'avevano a 53 e la portano a 60, bloccassi tutte le assunzioni e via così come tu ricordavi, tra l'altro più 10% le tasse sul carburante, tabacchi e alcolici, l'IVA che sale dal 21 al 23%, e questa è l'emergenza. C'è chi dice, ma insomma in questo modo pagano solo i lavoratori dipendenti, anche qui c'è sempre una verità. È vero, perché con il sistema colabrodo che ha il fisco greco, tutto in nero, evasione ai massimi, il Fondo Monetario va a colpire gli unici che sono visibili, non il nero è invisibile. È anche vero che i dipendenti pubblici in Grecia hanno avuto qualche aiutino in questi anni e questo fa parte anche dell'aver imbarcato così tanto debito. Insomma, una situazione in cui da un lato il pubblico impiego è stratutelato, dall'altro l'evasore fiscale è stratutelato. Vi ricorda qualcosa? Un'evasione fiscale altissima, un'economia sommersa onnipresente e conti pubblici sotto pressione. Stiamo parlando della Grecia, che di fronte agli attacchi della speculazione internazionale mostra non un tallone d'Achille, ma un fianco completamente scoperto. Basti pensare che su 11 milioni di contribuenti, appena 15.000 dichiarano redditi superiori ai 100.000 euro lordi l'anno e soltanto 2.000 oltre i 200.000 euro. L'incidenza dell'economia sommersa è la più elevata d'Europa e secondo l'OCSE vale circa il 25% del PIL, mentre la corruzione costa ad Atene 20 miliardi di euro l'anno e si calcola che ogni famiglia paghi in media 1.350 euro l'anno in bustarelle. Il tutto mentre la spesa pubblica è in costante crescita, non solo per le 150.000 assunzioni clientelari degli ultimi anni, ma anche per una selva quasi inestricabile di privilegi ingiustificati. Sono ad esempio ben 600 le professioni che in Grecia garantiscono l'accesso alla pensione anticipata a 55 anni, in quanto considerate usuranti. In alcuni casi una scelta sacrosanta. Peccato che tra queste figurino anche il parrucchiere, per i rischi chimici legati alle tinture, i presentatori televisivi per gli effetti nocivi delle micropopolazioni batteriche dei microfoni o i suonatori di strumenti a fiato per i rischi di reflusso gastrico. Alcuni uffici pubblici corrispondono poi un premio ai dipendenti che si sono presentati in ufficio in orario ed esiste persino un bonus zitella. Le figlie non sposate degli statali hanno infatti diritto a una pensione ereditaria di 1.000 euro al mese. Gli enti inutili sono migliaia, ma tra tutti spicca la commissione Copais, incaricata del salvataggio dell'omonimo lago prosciugatosi nel 1930. Speculare, dal latino speculum, indica in origine anche la capacità di osservare la realtà e prevedere il futuro. Ma alla luce di questi dati non servono doti divinatorie per capire perché il debito greco dovrebbe raggiungere il 140% del PIL nei prossimi anni e perché la situazione di Atene non appare più sostenibile. Eh sì, un'evasione fuori da ogni controllo, tutto in nero e un settore pubblico stratutelato. Vittorio D'Aroldo, un compromesso storico, si sarebbe detto usando un'espressione italiana, quello che secondo alcuni storici portò la DC a tutelare gli evasori, il PC a tutelare il pubblico impiego negli anni 70, che ha portato la Grecia dentro il baratro, non sull'orlo. Domanda, perché si vanno a tassare solo, non è che sia qualcosa di male, ma bloccare le tredicesime, le quattordicesime, bellissima sta cosa che i presentatori televisivi sono un lavoro usurante per i batteri contenuti nel microfono, la vogliamo anche noi in Italia, così. Ma perché si vanno a colpire solo i lavoratori dipendenti e non si fa una cosa che fece il governo Amato qui quando la lira fu cacciata dallo SME, quando non si riusciva a tenere in ordine i conti, quando rischiavamo di non entrare nemmeno nell'euro, e cioè un prelievo secco su tutti i conti correnti, una patrimoniale secca in Grecia? Voglio dire, i greci hanno anche tanti soldi, hanno le barche, le case al mare, ci sono, pensate, i miliardari greci che stanno comprando case di lusso a Londra a un ritmo senza precedenti, secondo l'agenzia londinese Knight Frank, il costo delle case è cresciuto del 21% a Londra il mese scorso grazie a tutti questi miliardari greci che stanno portando i capitali a Londra. Perché no? Anche la cedolare secca, la patrimoniale secca, il prelevo forzato sui conti correnti, la risposta dopo il traffico 349-238-6666 per gli sms, poi abbiamo anche i mercati che hanno chiuso a Milano con un calo dell'1,3%. Allora, Vittorio D'Aroldo, dicevo, in un paese in cui non funziona il fisco, c'è un nero immenso, in cui i miliardari greci stanno comprando casa a Londra, facendo schizzare i prezzi delle case a Londra perché scappano, in cui molti hanno una seconda casa non dichiarata, in cui la seconda casa non esiste, diciamo, nemmeno un piano regolatore in molti casi, perché si va a toccare solo e non anche le tredicesime, quattordicesime età pensionabili, cioè il pubblico impiego? Perché è visibile, non potrebbero fare una bella patrimoniale colpendo anche gli evasori, no? Ma è troppo tardi, ormai sono già fuggiti nelle filiali delle banche greche a Cipro. Si calcola appunto che siano già andati via una ventina di miliardi dai depositi delle banche greche. Restano solo appunto quelli che in qualche modo non ci hanno pensato, quindi quelli che sono, come dire, meno avvezzi a questo tipo di decisioni, e quindi si andrebbe a colpire sostanzialmente le persone che già hanno una i risparmi delle vecchiette, voglio dire, adesso banalizzo un po', ma insomma, come sempre piove sul bagnato. Grazie Vittorio D'Aroldo in collegamento con noi da Atene. Come ha chiuso la Grecia? Ha chiuso male, meno 4,5% la borsa di Atene, ormai insomma è un tracollo continuo. I sindacalisti greci presenti a Rimini al congresso CGIL continuano a dire di essere vittime degli speculatori. Beh, adesso piano, siete vittime anche di voi stessi, dei governi che avete votato, del nero che avete accettato, del pubblico impiego clientelare che avete avallato. Non ci sono solo gli speculatori. E questo vale per tutti i paesi che accettano certe cose e poi si lamentano se le situazioni precipitano. Diciamo che i paesi meno a rischio sono i paesi in cui c'è maggiore trasparenza, maggiore senso civico, controllo fiscale, meritocrazia nel pubblico impiego, insomma la borsa. Livia Zancaner, Radio Cor, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Sì, cito alcuni messaggi: la Grecia avrà 110 miliardi in 3 anni, siamo d'accordo, non tutti in una volta, sono prestiti, non sono soldi a fondo perduto. Dicevo, meno 4,6 Atene, Madrid, anch'essa in flessione, magari poi la diamo, Parigi meno 1,4, Francoforte meno 0,80, Londra meno 1,3%, Milano meno 1,3%. Continuano a essere le peggiori borse, a parte Madrid e Atene, Parigi e Milano. Da noi la situazione è un po' migliorata, grazie soprattutto a Pirelli, che viaggia e balla da sola dopo il via libera alla separazione di Pirelli Real Estate dal resto del gruppo, più 1,80%, Eni più 1,1%, Tenaris più 0,90%. Di Pirelli già abbiamo detto. Eni, come mai con un petrolio in calo? Ci sono motivi? Sì, allora, in realtà hanno parlato più, sui mercati hanno parlato più che altro di un rimbalzo, nel senso che Eni Tenaris e Saipem, vabbè, ha chiuso poco sotto la parità, meno 0,48, hanno resistito alle vendite in un comparto energetico che in Europa ha chiuso sopra la parità. Questo perché nei giorni scorsi era stato un comparto molto penalizzato a seguito del crollo appunto delle azioni dell'inglese BP, che per le conseguenze finanziarie derivanti dalla catastrofe ecologica nel Golfo del Messico. Inoltre bisogna sottolineare che per quanto riguarda Tenaris, questa sera dopo la chiusura di Wall Street verranno approvati i conti e domani ci sarà poi la conference call con la comunità finanziaria. Ancora vedo altri titoli oltre Pirelli ed Eni, però questa volta in negativo. Dunque, Campari, volete sapere di Campari? Vabbè, ieri hanno annunciato un aumento di capitale, però oggi la reazione non è stata brutta, più 0,26%. No, invece andiamo a chi ha perso. Buzzi Unice è meno 5,3. Ma com'è che i titoli delle costruzioni perdono più dei bancari e assicurativi oggi? Allora, oggi a penalizzare il settore sono stati i conti del gruppo francese Lafarge, che ha mostrato un calo dei ricavi del 10% e un utile netto in aumento a 64 milioni, ma grazie ad una plusvalenza di 137 milioni legata alla vendita della partecipazione nella società brasiliana. Inoltre, per quanto riguarda Buzzi Unice, sono stati pubblicati i conti anche della controllata tedesca di Ikerhof, che hanno mostrato ricavi in calo del 21% e una perdita netta nel primo trimestre in crescita a 36 milioni rispetto ai precedenti 26 milioni. Ancora i titoli, su Buzzi Unice c'è un motivo appunto francese e della controllata tedesca. Fondiaria meno 4, Monte dei Paschi meno 3,80, Ubibanca meno 3,3, Banca Popolare meno 3%, Unipol meno 2,70, Popolare Milano meno 2,30, e come Intesa San Paolo ancora, Mediobanca meno 2 e Unicredito meno 1,7. Del settore assicurativo bancario non ha senso il commento, cioè va male in tutta Europa, i motivi li spieghiamo da giorni e si chiamano Grecia, Spagna e quant'altro. Mediaset meno 3,4%, Fiat meno 3,1%, di nuovo sotto pressione sia Mediaset che Fiat. Sì, allora Fiat ha ceduto di nuovo dopo il meno 6,5% realizzato alla vigilia, quando era stata penalizzata dai dati sulle immatricolazioni di aprile, che in Italia non sono scesi del 26,2%, in Italia sono scesi del 26,2% e Fiat ha visto una quota di mercato scendere al 30,7%. Per quanto riguarda Mediaset, la società pubblicherà i conti del primo trimestre l'11 maggio, mentre domani saranno comunicati i conti della spagnola Telecinco, e sono arrivati giudizi diversi da parte degli analisti. Alcuni hanno confermato buy, quindi hanno consigliato l'acquisto sul titolo, mentre altri invece hanno abbassato il prezzo obiettivo sulle azioni. Allora, in calo anche, l'abbiamo citata, Prismi, almeno 2,5%, il 13 maggio usciranno i conti e ci sono molte perplessità sui conti di Prismian. Eutelia malissimo, meno 14,6%, male anche SNAI, meno 11%, Intec meno 8%, Renault meno 8%, Green Vision meno 7%. Perché male Eutelia? Beh, insomma, c'è l'udienza il prossimo 26 maggio per lo stato di insolvenza del gruppo. Grazie Livia Zancaner, Radio Corriere sulle 24 ore. Adesso c'è il nostro GR, poi parliamo dei volti, le facce, i luoghi di questa speculazione. Basta parlare di speculatori, di mercati come entità tra l'esoterico e l'astrofisico. Vorremmo sapere dove stanno, chi guadagna. A chi ci scrive: ma perché non parlate mai degli stipendi dei banchieri, che sono 100 volte gli stipendi dei medi? Io dico che programma ascolta, l'abbiamo detto centinaia di volte, che la differenza tra quando guadagnava il lavoratore medio e il suo capo top negli anni 70 era di 35 volte, a fine anni 90 è diventata negli Stati Uniti di 275 volte. Il genere. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo aver commentato i casi, ahimè, tragici di oggi della Grecia, la situazione greca, le colpe della classe politica greca, dei greci che l'hanno votata, di un paese che ballava il valzer del Titanic e adesso si rende conto del baratro in cui è già caduto, e anche comunque queste misure del Fondo Monetario, tutte a colpire le buste paga e chi, insomma, opera in chiaro, non chi opera in nero, come diceva Vittorio Darold. Però attenzione, già 20 miliardi sono scappati dalla Grecia per andare a comprare casa a Londra, per esempio. I prezzi delle case sono aumentati. Adesso ci spostiamo leggermente il tema. A chi si è appena messo in collegamento ricordo che anche oggi Atene ha perso un 4,5%, un 2% l'ha perso Madrid, l'1,30% l'ha perso Milano e l'1,40% Parigi, lo 0,80% Francoforte. Dicevo, vorrei parlare adesso di una domanda che spesso ci arriva, e cioè, ma insomma, questa speculazione, questi attacchi, prima alla Grecia, poi al Portogallo, alla Spagna, oggi Moody's dice che potrebbe abbassare il voto della Spagna, del Portogallo, anche lì Fitch, ma insomma, da chi arrivano? Che volti, che facce hanno? Eh sì, perché insomma si faceva l'esempio prima dell'ultimo grande crisi, lo shock petrolifero degli anni 70, lì i volti c'erano, i luoghi geografici c'erano, si chiamavano paesi arabi, sceicchi arabi, c'erano le guerre con Israele, insomma si sapeva da dove arrivava lo shock economico in Europa, questa volta no. Certo, sul banco degli imputati ci sono le agenzie di rating per il modo in cui hanno proceduto, per l'allarme che hanno creato, per il fatto di aver portato un debito come quello greco a un livello di non investimento, sotto il livello di investimento, ma insomma l'agenzia di rating si può ragionare sul ruolo, su a chi rispondono, ma non sono le agenzie di rating che stanno guadagnando. E allora c'è chi si spinge anche in analisi più articolate, dice attenzione, qui ci dimentichiamo che i governi europei, in particolar modo Italia, Francia e anche un po' la Germania, hanno chiesto regole più stringenti sui mercati finanziari, maggiori controlli sui mercati, sulla speculazione. Dall'altro Barack Obama, chiusa la partita sulla riforma sanitaria, vuole adesso aprire quella, e l'ha già aperta, con Wall Street, e questo potrebbe essere in qualche modo una prova di forza della finanza mondiale, anche qui però un concetto molto etereo, molto vago, cos'è sta finanza mondiale, comunque una prova di forza della finanza mondiale, delle grandi banche d'affari americane. Ricordo che Goldman Sachs ha fatto utili nel terzo trimestre del 2009 3,7 miliardi, di cui il 70% dovuto a trading, quindi speculazione, e potrebbe essere un messaggio, una prova di forza, un concetto, lo voglio far risentire, che l'11 dicembre del 2009 spiegò in maniera molto, a mio avviso, efficace Giulio Sapelli, che insegna storia economica, dicendo alla statale di Milano, nostro ospite, dicendo: stia attento Barack Obama a dichiarare guerra a Wall Street, perché questi reagiranno. Trovata la legge è fatto l'inganno, e quindi l'unico modo è trattare con questa gente qua, ricondurli, fare una lunga, però questo vuol dire che è una battaglia culturale prima che politica, che durerà alcuni anni. Sì, io non la vedo, però una cosa non si può combattere a colpi di legge, perché se no questi distruggono il sistema economico mondiale. Beh, perché sono nichilisti. Un certo colpo l'hanno già dato, professore. Sì, ma se tu gli metti le tasse, questa gente non ha nessuna visione di lungo periodo, è solo affamata di denaro ed è pronta, dispostissima a distruggere l'economia. Quindi bisogna andarci molto cauti. I Sarkozy, i Brown, sottovalutano gli avversari che hanno davanti. Però questi sono come delle bombe atomiche potenziali. Se io ho davanti a me una bomba atomica, cerco di fare un trattato di non proliferazione e devo negoziare con questi personaggi, anche se li disprezzo. Così Giulio Sapelli, in tempi non sospetti, qualcosa si sta verificando, insomma c'è un mondo che sta scommettendo su una non tenuta dell'Europa, della parte più debole dell'Europa, del ventre molle dell'Europa. L'euro a quota 1,28 oggi, ha perso anche quota 1,30, ha perso anche quota 1,29. E allora grazie a Walter Riolfi del Sole 24 Ore, nostro ospite, buonasera Walter. Buonasera. E grazie anche all'economista, ex grande uomo di Arthur Andersen, Marco Vitale, buonasera anche a lei. Buonasera. Allora, Vitale, prima di andare con le informazioni sul traffico, ha sentito Sapelli, è d'accordo o no? Sì, fondamentalmente sono d'accordo, con una precisazione. Obama ha avuto l'occasione per fare un'azione, una confrontation seria con questi grandi poteri, quando questi grandi poteri erano in ginocchio. ha perso quell'occasione perché aveva altre cose da fare o perché aveva paura, chi lo sa, e quindi ha perso il momento in cui poteva intervenire. È stato il momento in cui lui ha seguito quelli che Wall Street gli aveva messo a fianco, Summers e Geithner, aveva accantonato Volcker, e questo è stato un errore tragico per tutti, non solo per Obama, perché adesso per recuperare la situazione è molto difficile, ha molto ragione Sapelli, però c'era stato un momento in cui, quando questi erano tutti in ginocchio, Obama avrebbe dovuto condizionare gli interventi di salvataggio giganteschi fatti con i soldi dei contribuenti americani a delle precise condizioni. Non ha fatto questo al momento giusto, e come diceva Einaudi, nella storia quando si perde il momento giusto poi dopo è difficile rientrare. Quindi sono molto preoccupato della capacità di Obama adesso di recuperare, anche perché, questo non lo dice nessuno ma l'ho detto io fin dal luglio del 2009, il suo famoso piano che l'ha scritto Geithner non è un piano forte, non è un piano efficace. Non è un piano forte, è un violino, diciamo, per Wall Street. Si sta facendo una battaglia anche sbagliata. Beh, voglio dire, se il piano... quel piano lì del tesoro americano non affronta i problemi chiave. Quindi si sta facendo una battaglia di retroguardia. Se passa quella norma lì, e ci vorrà un anno per farla passare, non è successo quasi niente di serio. Le banche grandi saranno ancora più grandi, ci sarà una tassa in più, chi lo sa, ci sarà un organismo in più di sorveglianza, ma non è lì la soluzione del problema. Il problema andava affrontato quando questi grandi centri di potere erano in ginocchio e potevano essere ricondotti alla ragione democratica. Lei ha assolutamente ragione, anche perché l'America ha speso qualcosa come 1.000 miliardi, un po' di più, per salvare le banche, e allora poteva chiedere in cambio l'accettazione di alcune regole quando erano in ginocchio. Un discorso analogo, anche se con dimensioni molto più piccole, vale per l'Europa. Pure la Gran Bretagna, la Francia e soprattutto la Germania hanno speso soldi per salvare le proprie banche, potevano chiedere di più. Allora, da questo punto di vista, cioè, abbiamo capito che far scrivere il piano di riforma a Timothy Geithner, che appena finisce il suo lavoro torna in queste banche d'affari, è un po', insomma, come far decidere la data del Natale al tacchino, no? Se è possibile che venga posticipata. Io però, dopo le informazioni sul traffico, vorrei capire che nomi e che volti hanno gli speculatori, ma non per fare la lista, voglio sapere dove vivono, cosa fanno, ma non se ne può più di sentire dire il mercato sta scommettendo. Quale mercato? 349-238-6666 per i vostri sms. La verità, non trovo una parola migliore, è valida. La verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, la verità in tutte le sue forme, la verità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E la verità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. E quanto avidità, questi qua non li batte nessuno. A me è impressionato, professor Vitale e poi Walter Riolfi, un'intervista di qualche giorno fa, proprio Michael Douglas, che avete riconosciuto, era Gordon Gekko nel film dell'87 di Oliver Stone, adesso lo stanno rifacendo, ha detto, insomma, quello era un film di critica e sono diventato un mito, per cui ho creato generazioni di traders, di speculatori. E quella roba lì era da dilettanti rispetto a quello che capita adesso, cioè riguardava una nicchia. Allora, io vorrei, come se fossimo, passatemi il termine, in un commissariato di polizia, l'identikit di chi sta speculando, che faccia, dove abita, dove vive, ma non è la caccia alle streghe, insomma, chi ci sta guadagnando nello scommettere che la Grecia, la Spagna, il Portogallo salteranno per aria. Dottor Vitale. Ecco, io credo che proprio invece bisogna stare attenti di non fare la caccia alle streghe. Io in un mio recente libro faccio il parallelismo con la peste del Manzoni. A lungo si negò la peste, i medici di allora, nessuno voleva riconoscere che c'era la peste. Quando poi non si poté più negare, la si riconobbe, incominciò la caccia agli untori. Io credo che siamo un po' in quella fase lì e noi dobbiamo evitare la caccia agli untori perché sarebbe pericolosa. Allora chi opera, specula, sono centinaia, migliaia di operatori di mercato che hanno un compito: produrre un utile differenziale sui fondi che gli sono stati dati in gestione. E quando loro vedono una rottura del sistema, quando loro vedono un punto debole, loro attaccano con gli strumenti della speculazione, vendendo allo scoperto, eccetera, per trarre un utile differenziale da quella debolezza. Quindi questo è il volto di chi opera, migliaia e migliaia di operatori che hanno un mandato, questo compito e null'altro. Non sempre questo è negativo. Io vorrei ricordare quando nel 92 il governo Amato fece una manovrina finanziaria da quattro soldi e i mercati, cioè questi operatori, allora era in primo piano Soros soprattutto, anche adesso, fecero una grande operazione contro la lira. E questa fu utile per la lira, perché fu allora che si innestò la consapevolezza che era necessaria una manovra molto dura, come fece Amato, quella dei famosi 100.000 miliardi, certo. E fece ragionare i sindacati, e fecero quei ottimi accordi che hanno rimesso l'Italia in carreggiata. Quindi questo è il quadro, sì, vero. Allora, allora chi sono? Ecco, però in questo quadro si complica un po', perché questi sono gli operatori che fanno il loro mestiere. Chi è che ha creato il contesto favorevole a questa operazione? È stato, uno, l'assenza totale di leadership americana finora nella riforma finanziaria e nel prendere atto che c'era la peste. Hanno voluto negare la peste, hanno cercato in qualche modo di dire adesso ricomincia tutto come prima, e invece non poteva ricominciare come prima, perché la crisi da cui veniamo è profondissima. Due, professor Vitale. Due, i governi europei che hanno seguito l'America e hanno fatto pochissimo, non sono stati così inerti come l'America, hanno fatto qualcosa, ma sono stati molto inerti, e quindi hanno creato quella situazione generale di debolezza, di non intervento, e quindi hanno lasciato margine alla speculazione. Io sono d'accordissimo con lei che sono migliaia, centinaia di migliaia di operatori, alcuni però sono più operatori degli altri. David Tepper, George Soros, James Simon e John Paulson, al di là di questo incontro in cui non si capisce se c'è stato o no, hanno guadagnato l'anno scorso come gestori di hedge fund assolutamente bravi 4 miliardi di dollari in un anno Tepper, 3 miliardi e 3 Soros, 2 miliardi e mezzo Simons, 2 miliardi e 3 John Paulson nel 2009, l'anno della crisi. Quindi bravi, ma evidentemente qualcuno ci guadagna più di altri. D'accordo con lei, nessuno fa la caccia alle streghe, ci mancherebbe, e le responsabilità le stiamo distribuendo ai greci, alla politica greca, alla politica europea, ai tedeschi e quant'altro. Volevamo solo capire, insomma, cos'è sto mondo. Walter Riolfi, abbiamo due minuti scarsi. È quello che dice il professor Vitale, cioè, a me, lui citava la storia della peste e la caccia all'untori, no? Tornando a reminiscenze manzoniane, c'è Renzo Tramaglino durante i tumulti di San Martino che dice ad Ambrogio Fusello: qui c'è una lega che vuole affamare il popolo, no? Bisogna sempre cercare un capro espiatorio, qualcuno identificabile. Allora, l'immagine quella ricordata dal Wall Street, della cena dell'8 febbraio, dove ci sono 5-6 gestori di hedge fund a New York che si mettono d'accordo per attaccare l'euro, è abbastanza suggestiva. Non so quanto sia vera, perché qualcuno me la smentisce o me la ridimensiona. Ma il problema è che 4-5 gestori non ce la fanno a buttare giù l'euro. Mm-hmm. Chi li segue poi? Che... 4-5 gestori grossi a Jaffan potevano attaccare la lira nel 92 o la sterlina oppure il baht thailandese nel 98. Ma l'euro è effettivamente un boccone troppo grosso. Ecco, il problema è che è la speculazione, è l'intero mercato che si muove in una certa direzione non appena ha l'occasione e trova degli elementi per attaccare il mercato. E in questo mercato, tra l'altro, non sono i cosiddetti speculatori hedge fund che fanno tranquillo comunque il loro mestiere, ma sono le stesse banche, comprese le banche italiane, che probabilmente hanno venduto titoli greci o portoghesi. E anche i titoli, diciamo, del mercato altrimenti italiano. Altrimenti non si spiega un flusso di vendite no, così forte su euro e sui titoli. E quindi non c'è un untore, non c'è un monatto, c'è un sistema a cui viene lasciato, da quello che ho capito dal ragionamento tuo Walter e di Marco Vitale, viene lasciato... c'è qualche agitatore, sì, però, vabbè, ho capito, però poi l'agitatore c'è sempre, l'agitprop c'è sempre, ma non basta un agitprop a creare una rivoluzione o un attacco del genere. È un sistema in cui anche qui le responsabilità vanno date, e in alcuni casi anche alla politica, all'assenza, al vuoto della politica. Quando vedo che Bill Clinton dice in un'intervista: ma io non avevo capito, ma hanno detto che questi strumenti derivati erano così risibili, così usabili da pochi, che non ho pensato di fare una legge, mi hanno fregato. Capisci bene, diciamo, il salto che c'era tra chi predisponeva queste micce e chi avrebbe dovuto spegnere. Grazie, vi riavremo ospiti. Grazie a Marco Vitale, grazie a Walter Iolfi. Chiudiamo con Quinto Potere, Sidney Lumet, 1976. Non vi sono nazioni, non vi sono popoli, non vi sono russi, non vi sono arabi, non vi sono terzi mondi, non c'è nessun ovest. Esiste soltanto un unico, un solo sistema di sistemi. Uno, vasto e immane, interdipendente, intrecciato, multivariato, multinazionale dominio dei dollari. Petrodollari, elettrodollari, multidollari, Reichmark, sterline, rubli, franchi e shekel. È il sistema internazionale valutario che determina la totalità della vita su questo pianeta. Radio 24. La passione si sente.